140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. La musica nella nostra puntata di oggi di 140 caratteri. Aereo Stella, Milano. L'album si intitola PFM in Classic. Mussida, Di Cioccio e Givas in un grande incontro tra classica e rock. Il perché è molto semplice. Noi veniamo da una stagione bellissima per certi versi, perché l'incontro di varie musicalità ha creato un filone musicale molto importante che era la musica progressive. Questa musica progressive c'era un coacervo di varie tendenze: c'era il rock, c'era il blues, c'era il funky, c'era il jazz, c'era la musica classica. Perché c'era la musica classica? Perché finalmente la tastiera, il pianoforte che era in tutti i club dove suonava jazz, poteva diventare ed era diventato uno strumento trasportabile. Nel trasportarlo hanno anche inventato dei suoni, e fra questi c'era per esempio il mellotron, che sostituiva l'orchestra, aveva tutti i violini registrati, i flauti registrati, uno per tutti come esempio vale i flauti dei Beatles in Strawberry Fields, quando senti tu du tu du, quelli sono i flauti finti del mellotron. Il mellotron ti permetteva di giocare con l'orchestra senza ovviamente spendere tutti i soldi che costa un'orchestra. Quindi noi ragazzi avventurati in quella strada che non era più la canzone italiana, che non era più il rock di matrice americana, per cui dovevi fare i famosi tre accordi per fare le canzoni rock degli anni 50, c'era questa evoluzione da cui si chiamava progressive. La progressione di questa evoluzione del rock ti portava a scoprire musicalità. Questa passione della musica classica ce l'avevamo all'epoca, però nessuno di noi ha studiato veramente con tanto di diploma. Folgorati sulla via di Liverpool anziché su quella di Damasco, che era pericolosa già allora, quindi accade che dopo tutti questi anni, 5.000 concerti nelle dita, abbiamo detto: se non ora, quando? Nel senso, dobbiamo riabbracciare la grande madre, perché nella musica classica è proprio la madre di tutte le musicalità. Come si scelgono dei brani per una celebration come questa? Perché andare da Mozart a Saint-Saëns, a Dvořák, a Mahler... Diciamo che si scelga, il criterio è stato doppio, diciamo. Da un lato c'è la passione della nostra storia giovanile, che comunque arriviamo da famiglie dove la musica classica in ogni caso era nella discoteca di famiglia, diciamo, che né io né Franz, probabilmente né Patrick, arriviamo da famiglie borghesi con la possibilità di essere educati andando a sentire la Scala, queste meraviglie, però c'era una discografia presente in casa, e quindi ci siamo intanto confrontati sulle cose che tutto sommato erano vicine a noi o che avevamo già ascoltato, che ci piacevano. Da questo punto di vista abbiamo anche fatto una sintesi lavorando su alcuni aspetti che sono anche quelli relativi all'etnia, quindi alla musica etnica. Ci sono diverse danze, per esempio, no? Che rispecchiano un pochino anche così le tendenze di noi musicisti della PFM, per cui c'è per esempio la danza macabra, ma c'è anche la danza slava, c'è la Pasqua russa, che è anche lui una composizione che ricalca la parte etnica. E poi delle sfide come quella di Mozart, che bene o male è una grande sfida, perché cercare di rendere attuale, attualizzarla, dialogare con il linguaggio di Mozart è stata una bella sfida. E quindi ci sono anche queste componenti E poi voglio dire quello che ha rappresentato anche per noi una certa cultura italiana, no? Quindi ci sono i grandi compositori italiani, poi tanti divertimenti, anche tante improvvisazioni. E anche tanta PFM, proprio ci sono anche i brani della PFM, come li avete inseriti? Beh, non potevamo, visto che avevamo a disposizione questa meravigliosa orchestra, non potevamo che approfittarne e suonare i brani della PFM, certi pochi brani purtroppo, ma certi brani significativi della PFM con la Sinfonica. È stata un'emozione fare queste cose qua senza i mellotron o i vari strumenti che emulano in qualche modo la Sinfonica, perché in molti pezzi della PFM comunque c'erano degli elementi discografici, diciamo, che già si avvicinavano all'orchestra. Abbiamo potuto farli nel modo migliore, non solo riproponendo le cose iniziali che abbiamo fatto, con delle sonorità ovviamente molto più ricche, visto che erano 41 o 42 persone che suonano, ma trovando anche delle parti nuove e degli arrangiamenti nuovi. È stata veramente una cosa molto carina per i pezzi della PFM, oltre che per tutta la musica classica che abbiamo fatto. Anche dell'aspetto umano, perché come vi siete trovati, com'è stato l'impatto quando siete arrivati, come vi hanno accolto? La nostra storia è una storia abbastanza singolare, nel senso che per un insieme di ragioni che stanno nel tipo di lavoro che facciamo, nel modo in cui facciamo musica e nella nostra storia, siamo abbastanza conosciuti da generazioni che hanno la nostra età, ma anche da musicisti classici che hanno ascoltato i nostri lavori e, nonostante facciano musica classica, poi a casa loro si ascoltavano la PFM o si ascoltavano, ascoltano jazz, ascoltano altre cose. E quindi le orchestre con le quali abbiamo suonato erano un po' piene di questi ragazzi, alcuni di persone un pochino più anziane, ma se vuoi erano comunque magari coetanee, ma nello stesso tempo erano finalmente è contente di uscire da casa loro, dal loro ascolto privato, e tutto quell'ascolto privato magari che a loro piaceva tanto, no? Quindi c'era questa empatia da musicisti e tra musicisti, a prescindere dai ruoli. Ecco, questa cosa qui è una cosa che si è sentita molto in tutti i concerti, e questo ovviamente ha favorito poi il risultato finale, perché c'è una partecipazione emotiva molto forte. C'è l'odore della terra, odor di grano, sale adagio verso me. Nel mio petto batte piano, respiro la nebbia, penso a te. Scala sarebbe il posto giusto per... Cosa ne dite? Vai, Patrick, scala, Ma scala. beh, senz'altro sarebbe il posto giusto, nel senso che la Scala è il tempio della musica classica in Italia, è un teatro famoso in tutto il mondo, un teatro che ricordo, io sono francese, quindi molto prima di arrivare in Italia, quando ero ragazzo e abitavo in Francia, comunque la Scala per me era già, io mi immaginavo una cosa enorme. Non so perché, quando ero giovane, pensavo che la Scala fosse una cosa enorme, per dirti l'importanza che ha questa parola nel mondo, no? Poi, quando l'ho vista, non sono rimasto male, però ho detto: ma porca mia, come piccolo! Cioè, mi aspettavo una cosa grandiosa. Quindi la Scala è la Scala, cioè, suonare alla Scala questa musica sarebbe per noi un enorme piacere, perché darebbe un senso compiuto a tutto questo lavoro che abbiamo fatto, e sarebbe proprio il cerchio chiuso, e sarebbe una cosa meravigliosa. Ovviamente, ci sono un po' di difficoltà, ci sono un po' di, suppongo che ci saranno un po' di difficoltà per portare avanti un progetto di questo genere, ci saranno delle barriere da superare, dei dubbi da superare. Noi siamo un gruppo rock, quindi probabilmente ci... un po' come quando abbiamo fatto il lavoro con Fabrizio, che nei primi tempi, prima di fare il lavoro, nessuno voleva che si facesse, né la casa discografica nostra né la loro, nessuno. Tutti dicevano che sarebbe stato un disastro, perché noi avremmo suonato molto forte rock e l'avremmo sotterrato sotto milioni di watt e via dicendo. Invece la storia ha dimostrato il contrario, quindi molto probabilmente per quello che riguarda la Scala succederà la stessa cosa, almeno lo speriamo. 140 caratteri, una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. Ancora musica nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Feltrinelli Red, Milano. Un best of davvero insolito. In Cosa credi è una raccolta di canzoni scartate dal più affermato autore italiano di oggi. Pacifico. Non è stato un pensiero, devo dire, lucido, un progetto. È diventato, infatti, una cosa che mi colpisce il fatto di essere qui a una presentazione di un disco fisico, perché in realtà via via queste canzoni che avevo sparpagliate nel computer, ed erano fondamentalmente canzoni che sono arrivate molto avanti nella realizzazione dei miei dischi, 5 dischi precedenti. Perché quando scrivi spesso, almeno nel mio caso, io ne scrivo molte di più, un po' per ricerca, un po' temo per insicurezza, quindi arrivo gli ultimi giorni che magari invece di avere 10 pezzi ne ho una ventina, 15, 17, che mi sembrano poi tante altre pessime, ma insomma ce ne sono un po' fuori che sono canzoni degne. E poi il motivo per cui non vengono scelte è il fatto che magari alcune sono usurate dagli ascolti, il fatto che qualcuno entra quel giorno in studio e dice ma fa un... e quindi la fragilità del giudizio altrui, per un giudizio altrui, e non volevo perderle, quindi volevamo metterne in circolo un paio sulla rete, in questo limbo, però dove puoi trovare tante cose. Invece poi ci siamo appassionati, ce ne sono tante, appunto volume 1, questo disco, a parte una specie di collana parallela, credo che gli daremo un seguito. E allora in cosa credi? Non hai una frase, una parola chiave, un altare per inginocchiarti, una statua antica da baciare. Credo alla stranezza del tutto, all'ingegnosa perversione che ci ha messo al mondo, certi ad imparare questa confusione. Viene definito un EP, però è come se fosse un album intero, perché di tracce ce n'è tante che appartengono, immagino, a periodi diversi della tua vita, e quindi le musiche, i testi, le atmosfere, è curioso riviverle tutte insieme poi. Sì, l'EP proprio testimonia più che incertezza, inconsapevolezza di dove sarebbe arrivato il progetto. Volevamo fare appunto una cosa più piccola, e ora in realtà ci sono 7 inediti, quindi siamo vicini a un disco 7 più una ripresa, quindi sono 8 brani. No, è che alla fine abbiamo scelto, io ho scelto le canzoni ripercorrendo tutto, facendo questa corsa all'indietro, quindi ci sono canzoni dal primo disco, fondamentalmente, infatti La Giostra, ad esempio, un brano un po' elettronico del periodo in cui scrivevo più io il computer da solo senza misurarmi, quindi l'elettronica era un compagno necessario, fino alla Giostra, fino alla Stella Arturo, che invece è un brano che era uscito da Una Voce Non Basta, perché non ho trovato un duetto per metterla su quel disco. Insomma, c'è veramente, ed è strano perché rivedendo tutti questi 10 anni, questi 5 dischi, anche questi brani lo testimoniano, capisco che c'è un ambito in cui io scrivo che è sentimentale, una linea di fragilità che poi però temo alimenti le canzoni un po' di tutto, quasi tutto. Fermo come una giostra con le astronavi in terra, non si può volare, bisogna camminare come una bicicletta con la catena a terra. Ti ritrovi anche in un testo che magari hai scritto 10 anni fa? La cosa per cui l'ho scelta è che non c'è nessun testo a cui avrei messo le mani. Ad esempio La Giostra, che è un pezzo che racconta una giornata di un adolescente, di, insomma i miei ricordi, una giornata torpida di un adolescente in cui guardavo il mondo passarmi accanto senza assolutamente quasi parteciparvi. E nonostante sia di quell'epoca non l'avrei ritoccato, così come le canzoni sentimentali, ovviamente non volevo, ho pubblicato delle canzoni scartate ma non degli scarti, non l'avrei fatto, ma per me, prima di tutto per me. Ragazzini in bicicletta al buio, solo loro il vento tra le case, solo loro il giro delle ruote. Ragazzini in bicicletta al buio, solo loro il vento tra le case, solo loro il giro delle ruote. Ma da autore, quando scrivi per altri, sono canzoni che hai scritto per te e che poi invece affidi a qualcun altro, le scrivi su misura? Me lo chiedo perché poi sarebbe curioso, io sarei curiosa di sentire tue versioni di pezzi che poi, di perle che hai regalato ad altri. A parte che questa cosa dei pezzi credo che sarà una delle presenze se faremo i volumi successivi, credo che qualche rifacimento più vicino, proprio come le ho scritte di alcune canzoni più conosciute, insomma, credo che le farò. Ma no, in genere no, sempre più nel tempo scrivo, sono proprio scisso, e questa è una fortuna, perché è come se posso dedicarmi a queste personalità, a questi artisti, quando arrivano a cantare, ed è un modo in cui posso liberarmi, togliere l'ingombro di me stesso, devo dedicarmi a loro, ascoltare, capire, è un po' un lavoro da ventriloquo, capire che cosa, qual è la cosa migliore che possono dire, e metterci anche ovviamente la tua personalità, ma che non sia troppa, quindi è tutto un lavoro di bilancino. Quando sei tu, è chiaro, il rischio è che sbordi o che tracimi, infatti ci sono un sacco di, anche i miei pezzi che sono, ma ne sento anche tanti di altri, interminabili fogli, che proprio questa catarsi per liberarsi di pene personali. Però ormai si stanno sviluppando due filoni differenti. Non, le canzoni scrive per me difficilmente le potrebbe cantare un altro. Vieni a cercarmi, vieni a toccarmi, sarà col francese, con non solo lo studio della lingua, ma così entrare nella scena musicale francese, anche questo insomma è un orizzonte che ti potrebbe aprire, visto che vivi lì. Allora, il francese parlato mi difendo, non va benissimo, nel senso che per quanto tempo sono lì non lo parlo, lo capisco praticamente tutto, ma ascolto più che parlarlo, perché lavoro spesso in uno studiolo che mi sono tirato su da solo quasi tutti i giorni, la mia compagna è italiana, quindi insomma alla fine ascolto molto francese ma lo esercito poco, però diciamo che riesco ovviamente adesso a gestire tutto tra la mimica italiana e un po' di intuizione. Il fatto di suonare adesso, sto scrivendo lì con degli autori locali, quindi sto ripartendo, sto facendo un po' di gavetta, vabbè sono partito con un po' più di fortuna, però perché alcuni artisti italiani loro li conoscono molto bene, c'è Zucchero, Bocelli, Celentano, tutta gente con cui ho lavorato. Però sto lavorando con degli autori lì per scrivere lì ovviamente la musica, non i testi, perché sui testi, non parlandolo un po' come Totò, non mi avventuro. E poi vorrei fare un paio di concerti, stiamo organizzando piccole cose, insomma, ci sono un paio di centri, c'è una libreria italiana molto carina che fa spesso spettacoli, e anche l'Istituto di Cultura, insomma credo faremo un paio di cose lì, visto che devo prendere solo il metro e non costo. L'ultima cosa, quindi adesso avremo altre canzoni nascoste, volume 2, 3, chissà, un disco tuo nuovo, ancora collaborazioni e dal vivo anche? Credo che In cosa credi, che non molla, non demorde, non vuole saperne appunto, né le canzoni non vogliono essere dimenticate, né, verrà seguito da alcuni concerti. Poi vorrei magari dedicarmi al disco nuovo, a scrittura, quindi non vorrei seguirlo, non vorrei che In cosa credi mi tirasse dentro in un piccolo tour. E quindi credo che poi mi metterò a lavorare per realizzare un disco entro l'anno prossimo, quindi insomma cioè finirlo entro l'estate, e poi quindi insomma adesso i progetti sono quelli, in più c'è questa costanza delle canzoni per altri, quindi sono sempre lì con la penna in mano. Ed